cosa valgono non so, una stanza ad un castello di Brenda non ce n'è, una rosa, un ciclamino, sono fiori e niente più, ma col sole e con la pioggia la mia strada dov'è? Zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai.